Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Introduzione di Federico Tiezzi. Passaggio in India è il mio romanzo preferito. La lettura che ne fa Sandro Lombardi segue il racconto scenico che ne ho fatto attraverso il testo di Santa Ramarau, che negli anni 60 decise di adattare per il teatro il romanzo di Forster. È un romanzo questo che mi ha seguito nel corso della mia vita. Ricordo una mia prima lettura per Rai 3, nella quale mettevo in evidenza soprattutto e focalizzavo l'attenzione del taglio drammaturgico che avevo dato al testo sull'amicizia tra il dottor Aziz e Mr. Fielding, quell'amicizia venata di affetto e virgolettando la parola, di inimicizia, un'amicizia che cerca di rendere equilibrate due visioni del mondo, quella inglese di Fielding e quella indiana del dottor Aziz, visioni del mondo inconciliabili. Io devo molto a questo romanzo, ma devo molto all'autore di questo romanzo, e cioè a Edward Morgan Forster, che con i suoi romanzi e soprattutto con Passaggio in India e Maurice mi ha insegnato una tecnica che io approfondisco e della quale mi ricordo ogni volta che faccio uno spettacolo, e cioè la tecnica del racconto. Cosa mi interessa di Passaggio in India? Mi interessa lo scontro di civiltà, mi interessa quel meccanismo di scatole ad incastro per cui da un avvenimento centrale che è una sciagurata visita a famosissime e bellissime grotte induiste nella vallata di Marabar si arriva al disastro sociale, pubblico. Questo romanzo io lo vedo come formato da tre scatole. C'è una prima scatola che contiene una vicenda umana, che è quella di una inglese bruttina in crisi che vuole vedere la vera India e che rimane turbata per ragioni personali, visto che sta per sposarsi di lì a poco con un suo conterraneo, da un giovane medico indiano con il quale fa questa famosa gita turistica e che lei trascinerà in uno scandalo. Ecco, questa vicenda è, direi, contenuta in un contenitore che è più grande, è quello che riguarda il rapporto tra indiani e inglesi colonialisti. È questa seconda la scatola che racchiude gli interrogativi di Forster sul colonialismo, sul Raj britannico, e questi due aspetti del romanzo sono insieme contenuti in quella che per me è l'ultima scatola e che racchiude un tema più vasto, più complesso, che è quello dello scontro di civiltà. Quando ho per la prima volta letto questo romanzo, ho capito che c'era all'interno di questo racconto un centro formato da alcune grotte induiste in una vallata solitaria. E mi sono chiesto, ma cosa c'è dentro quelle grotte che spaventa così tanto questa giovane donna, tanto da creare uno scandalo di proporzioni gigantesche su quella che può essere una fantasia, lo scontro con un'illusione? Ma cosa c'è là dentro? Forster, quando gli è stato chiesto questo, ha detto che nelle grotte c'è un uomo o il soprannaturale o un'illusione, ma anche se lo sapessi, conclude Forster, non lo direi. Ecco che in un altro momento Foster dice, alcuni anni dopo l'uscita del romanzo, che cercò di dimostrare che l'India è un guazzabuglio inesplicabile, introducendo un guazzabuglio inesplicato, e cioè l'esperienza di Miss Quested nella grotta. Ma questa esperienza in cosa consiste? Io mi sono sempre chiesto. Qual è questa cosa che Foster non ci dice, che mi affascina tanto? È davvero un'illusione o è la rimozione dell'amore? È la seduttività di un paese che si scontra con la assoluta frigidità del paese di provenienza? Oppure là dentro c'è una coscienza tormentata e infelice, che non è solo quella di Adela Quested, ma è quella dell'uomo bianco, è quella dell'uomo bianco occidentale, che non concilierà mai la sua visione del mondo con quella di un indiano, con quella di un asiatico. Ecco che questi sono alcuni degli elementi che mi hanno affascinato, che mi hanno colpito in profondità alla prima lettura del romanzo, e che spero ogni ascoltatore che attraverso le parole di Sandro Lombardi ripercorre tutto il tragitto di Adela Quested, di Mrs. Moore, del dottor Aziz, di Mr. Forster, possa percepire tutti questi elementi che mi hanno affascinato tanto profondamente. Tolte le grotte Marabar, che poi sono a 20 miglia di distanza, la città di Chandrapur non offre nulla di straordinario. Più rasentata che bagnata dal Gange, si trascina per circa 2 miglia lungo la riva e a stento la si riconosce dai detriti che il fiume deposita con tanta abbondanza. Sul lungo fiume non ci sono gradini per i bagni, perché caso vuole che qui il Gange non sia sacro. In realtà non c'è il lungo fiume, e i bazar precludono l'ampia e mutevole vista della corrente. Le strade sono sordide, i templi abbandonati, e sebbene ci siano alcune case eleganti, sono nascoste in giardini o in fondo a viali così sporchi da scoraggiare chiunque non vi sia stato espressamente invitato. Chandrapur non è mai stata né grande né bella. ma 200 anni fa si trovava sulla strada che univa l'India superiore, allora imperiale, al mare, e le case eleganti risalgono a quell'epoca. L'entusiasmo per la decorazione finì nel XVIII secolo e non fu mai democratico. Nei bazar non c'è che qualche scultura e nessun dipinto. Persino il bosco sembra fatto di fango e la gente di fango animato. Tutto ciò che lo sguardo incontra è così fatiscente, così squallido, che quando scendono le acque del Gange ci si aspetterebbe di vederle travolgere quell'incrostazione nella terra. Le case crollano, la gente annega ed è lasciata imputridire, ma il profilo generale della città sussiste, qua gonfiandosi, là ritraendosi, come un'infima ma indistruttibile forma di vita. Nell'entroterra le cose cambiano. C'è uno spiazzo ovale e un lungo ospedale giallognolo. Le case degli euroasiatici sorgono sull'altura nei pressi della stazione ferroviaria. Al di là della ferrovia, che corre parallela al fiume, il terreno degrada, poi torna a innalzarsi piuttosto ripido. Su questa seconda altura è sistemato il piccolo centro amministrativo e, vista di là, Chandrapur appare un luogo del tutto diverso. Una città di giardini. Non è una città, ma una foresta sparsa di rare capanne. È un parco tropicale bagnato da un nobile fiume. Le palme e gli alberi di neem e i manghi e i pipal che erano nascosti dietro i bazar ora sono visibili e a loro volta nascondono i bazar. Si alzano dai giardini dove li nutrono antiche cisterne, prorompono da soffocanti strettoie e da templi abbandonati. In cerca di luce e d'aria, e più dotati di forza che non l'uomo e le sue opere, si librano al di sopra dei sedimenti inferiori per salutarsi a vicenda coi rami e le foglie ammiccanti e costruire una città per gli uccelli. Dopo le piogge, in special modo, celano quello che accade sotto di loro, ma sempre, anche riarsi e spogli, gloriano la città agli inglesi che abitano sull'altura, tanto che i nuovi arrivati non possono crederla squallida come viene descritta, e bisogna portarli giù per disilluderli. Quanto al centro amministrativo, non suscita reazioni particolari. Non incanta e non ripugna. È costruito secondo un piano razionale, con un circolo di mattoni nudi in cima e più addietro una drogheria e un cimitero. I bungalows, poi, sono allineati lungo strade che si intersecano ad angolo retto. Di disgustoso non c'è niente, e di bello c'è soltanto la vista. Con la città non ha in comune che l'arco del cielo. Anche il cielo ha i suoi mutamenti, ma meno accentuati di quelli della vegetazione e del fiume. Talvolta le nuvole lo intarsiano, ma per lo più è una cupola di colori mescolati e quello che predomina è l'azzurro. Di giorno l'azzurro sbiadisce nel bianco, dove tocca il bianco della terra. Dopo il tramonto ha un nuovo orizzonte, arancione, che in alto si stempera nella porpora più delicata. Ma la nota centrale dell'azzurro rimane sempre, e questo anche di notte. Allora le stelle pendono come lampade dalla volta immensa. La distanza tra loro e la volta non è nulla in confronto alla distanza alle loro spalle, e quella distanza più lontana, sebbene di là dal colore, si liberava per ultima dall'azzurro. Il cielo regola tutto, non soltanto i climi e le stagioni, ma anche il momento in cui la terra deve essere bella. Da sola lei può far poco, appena qualche debole rompere di fiori. Ma quando il cielo lo decide, la gloria può piovere nei bazar di Chandrapur o una benedizione passare da orizzonte a orizzonte. Questo il cielo può fare perché è forte e così enorme. La forza gli viene dal sole, che gliela infonde ogni giorno, l'immensità dalla terra prostrata. Nessuna montagna frastaglia quella curva. Per miglia e miglia la terra è piana, si solleva un poco, è nuovamente piana. Quell'infinita distesa è interrotta soltanto a sud, dove un ammasso di pugni e di dita balza fuori dal suolo. Quei pugni e quelle dita sono i monti Marabar, che contengono le straordinarie grotte. Abbandonando la bicicletta, che cadde prima che un servo potesse afferrarla, il giovanotto si slanciò nel portico. Era pieno di vivacità. «Amidulla! Amidulla! Ho fatto tardi?» esclamò. «Non ti scusare», disse il padrone di casa. «Tu fai sempre tardi. Rispondi alla mia domanda. Sì, buono, ho fatto tardi. Mahmud Ali ha mangiato tutto? Se è così me ne vado. Signor Mahmud Ali, come state?» «Grazie, dottor Aziz. Sto morendo». «Prima di pranzo? Oh, povero Mahmud Ali!» «Il nostro Amidulla è già morto, ha esalato l'anima mentre voi filavate in bicicletta». «Proprio così», disse l'altro. «Fa conto che ti stiamo parlando tutti e due da un altro mondo più felice. E in quel vostro mondo più felice esiste qualcosa come un'ucca, per caso?» L'ucca è una pipa orientale con un serbatoio d'acqua attraverso il quale passa il fumo prima di arrivare al cannello. Era stata troppo intasata, come sempre in casa del suo amico Hamidulla, e gorgogliava bisbetica. Aziz la mise a posto. Decidendosi a cedere, il tabacco finalmente gli sprizzò nei polmoni e nelle narici, cacciandone il fumo di sterco bruciato che glieli aveva riempiti mentre correva in bicicletta per il bazar. Era delizioso. E gli cadde in un rapimento, voluttuoso ma sano, entro il quale il discorso degli altri due non sembrava particolarmente triste. Stavano discutendo se fosse possibile o no fare amicizia con un inglese. Mahmud Ali sosteneva di no. Hamidullah era di parere contrario, ma con tante riserve che tra loro non sorgeva attrito. Una vera delizia, giacere sotto il vasto portico, col sorgere della luna di fronte, alle spalle i servi che preparavano il pranzo e nessun guaio in vista. Beh, guardate quello che mi è successo stamattina. Io sostengo solo che in Inghilterra è possibile, ribatté Hamidullah, che vi era stato molto tempo addietro, prima della grande emigrazione, e a Cambridge aveva ricevuto una cordiale accoglienza. Qui è impossibile. Aziz, quel ragazzo dal naso rosso, mi ha insultato di nuovo in tribunale. Non lo biasimo, gli hanno detto che deve insultarmi. Sino a poco tempo fa era un ragazzo simpaticissimo, ma gli altri l'hanno sobillato. Sì, qui non hanno via d'uscita, ecco la mia tesi. Arrivano con l'intenzione di comportarsi da gentiluomini e gli dicono che non servirà a niente. Guardate Leslie, guardate Blackiston. E adesso è la volta del vostro ragazzo dal naso rosso e poi toccherà a Fielding. Ecco, mi ricordo di quando era appena arrivato Tarton. Stava in un'altra zona della provincia. Voi non ci crederete, ma io sono andato con Tarton nella sua carrozza. Tarton! È proprio così. Una volta eravamo amici intimi. Mi ha mostrato la sua collezione di francobolli. Ora ha paura che gliela rubiate, Tarton. Ma quel ragazzo dal naso rosso diventerà molto peggio di Tarton. Non credo. Diventano tutti perfettamente uguali, né peggio né meglio. A un inglese do tempo 2 anni, sia Tarton o Barton. Non c'è che una lettera di differenza. E se si tratta di una donna, 6 mesi. Sono tutti uguali. Non siete d'accordo? Io no, rispose Mahmoud Ali, entrando in quell'amaro scherzo, mentre si sentiva addolorato insieme e divertito a ogni parola che veniva pronunciata. Dal canto mio vedo enormi differenze tra i nostri governanti. Naso rosso mastica le parole. Tarton parla con chiarezza. La signora Tarton accetta mance. La signora Naso Rosso non lo fa e non può farlo, perché a tutt'oggi non esiste una signora Naso Rosso. Mance? Non sapevate che quando furono provvisoriamente trasferiti nell'India centrale per il progetto di un acquedotto, non so quale Rajà le ha regalato una macchina da cucire d'oro massiccio per ottenere che l'acqua attraversasse il suo stato? E ci è riuscito? No! E qui sta la bravura della signora Tarton. Quando noi, povere pelli colorate, prendiamo una mancia, facciamo quello per cui ci pagano, e così la giustizia ci scopre. Gli inglesi prendono e non fanno niente. Io li ammiro. Li ammiriamo tutti. Aziz, per piacere, passami Luca. Oh, non ancora. È così briosa adesso. Sei proprio un ragazzo egoista. Improvvisamente alzò la voce e chiamò per il pranzo. I servi di rimando gridarono che era pronto. Volevano dire che si auguravano che fosse pronto. E così fu interpretata la loro risposta, perché nessuno si mosse. Poi Hamidullah continuò, ma in tono diverso e con visibile turbamento. Ma prendi il caso mio, il caso del giovane Hugh Bannister. Ecco qua, il figlio dei miei cari amici scomparsi, il reverendo Bannister e sua moglie. Non potrò mai dimenticare né descrivere il loro affetto quando ero in Inghilterra. Per me sono stati un padre e una madre. Con loro parlavo come parlo adesso. Durante le vacanze, al loro rettorato, ero in casa mia. Mi affidavano tutti i loro figli. Uscivo spesso col piccolo Hugh in collo. L'ho portato ai funerali della regina Vittoria e l'ho tenuto in braccio sopra la folla. La regina Vittoria era diversa, mormorò Mahmoud Ali. Aziz intervenne. Perché parlare degli inglesi? Che c'entra essere amici o non essere amici di quella gente? Chiudiamoli fuori e stiamo di buon umore. La regina Vittoria e la signora Bannister erano le uniche eccezioni. E sono morte. No, no, questo non è vero, ne ho incontrate altre. Anch'io, disse Mahmoud Ali, cambiando inaspettatamente rotta. Non tutte le signore sono così. Il loro stato d'animo mutò, ed essi ricordarono piccole attenzioni e cortesie. Mi disse grazie tanto con la massima naturalezza. Mi offrì una pasticca una volta che la polvere mi aveva irritato la gola. Hamidullah poteva ricordare ben altri esempi di angelica assistenza, ma l'altro, che conosceva soltanto l'Anglo-India, era costretto a frugare nella propria memoria in cerca di minuzzoli, e non c'era da stupirsi che tornasse al suo solito... Ma naturalmente sono tutti casi eccezionali, e l'eccezione non conferma la regola. La donna normale è come la signora Tarton, e voi, Aziz, sapete bene che cos'è. Aziz non lo sapeva, ma disse di sì. Anche lui traeva conclusioni generali dalle proprie delusioni. A chi appartiene a una razza assoggettata è difficile fare altrimenti. Eccezioni a parte, egli convenne che tutte le donne inglesi erano altezzose e venali. Un servo annunciò il pranzo. Venne ignorato. I più anziani erano arrivati all'eterno tema della politica. Aziz si allontanò nel giardino. Gli alberi avevano un profumo dolce. Brani di poesia persiana gli tornarono alla mente. Il pranzo, il pranzo, il pranzo. Ma quando Aziz tornò in casa, Mahmoud Ali se n'era andato con la sua carrozza, lasciando detto che in 5 minuti sarebbe stato di ritorno. Ma Hamidullah e Aziz non avevano nessuna voglia di aspettarlo. Si sedettero a pranzo con un lontano cugino della famiglia, Mohammed Latif, che viveva della munificenza di Hamidullah e che non era considerato né un servo né un eguale. Non parlava che quando gli rivolgevano la parola e dal momento che nessuno parlava manteneva un silenzio senza rancore. Ogni tanto ruttava in ossequio alla ricchezza dei cibi. Un vecchio gentile, felice e disonesto. In tutta la sua vita non aveva mai mosso un dito per lavorare. Finché uno qualunque dei suoi parenti aveva una casa, a lui non sarebbe mai mancato un tetto, ed era improbabile che una famiglia così numerosa andasse tutta in rovina. Sua moglie conduceva un'esistenza analoga a 100 e più miglia di distanza. Lui non andava a farle visita perché il biglietto ferroviario costava. In quel momento Aziz prese a canzonare lui e i servi per giunta, poi si mise a citare poesie persiane, urdu e qualcuna araba. Aveva buona memoria e per un uomo così giovane aveva letto molto. Quelli ascoltavano, incantati, perché della poesia avevano un'idea collettiva e non individuale come usa in Inghilterra. Non si stancavano mai di sentire parole, parole, le respiravano con la fresca aria notturna, senza mai soffermarsi ad analizzarle. Il nome del poeta, Hafiz, Abi, Ikal, bastava come garanzia. L'India, 100 Indie, sussurrava all'esterno sotto la luna indifferente, ma per quell'attimo l'India appariva una sola, la loro India, ed essi riconquistavano la perduta grandezza, udendo lamentarne la perdita. Tornavano a sentirsi giovani perché ricordavano che la giovinezza deve fuggire. Un servo in rosso interruppe Aziz. Era l'aiutante del chirurgo civile e gli porse un biglietto. «Il vecchio Callender vuole vedermi nel suo bungalow», disse lui senza alzarsi. «Potrebbe avere la gentilezza di dirmi perché?» «Un caso grave, forse?» «Mi sa di no, mi sa che non è niente. Ha scoperto l'ora in cui pranziamo, ecco tutto, e si diverte a interromperci ogni volta per dare prova della sua potenza». Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.